siamo arrivati alla 11ª edizione. Come sai, la nostra tradizione è una tradizione piuttosto eretica rispetto alle commemorazioni ufficiali del 25 aprile. Al Pratello non è mai stato un momento né rituale né convenzionale. Si parte sempre dai valori della resistenza partigiana, si commemora la lapide che ricorda i martiri patrioti comunisti uccisi al Pratello, ma si attualizza sempre con lo sguardo rivolto al presente, quindi non è la manifestazione nostalgica, tutt'altro, è sempre un momento di riflessione e di sprone e di rilancio delle lotte che si intrecciano anche sul territorio. Anche quest'anno, ad esempio, oltre agli interventi musicali, gli interventi delle associazioni, di tante organizzazioni che comunque affollano e partecipano al Pratello, poi ci sono anche gli interventi che nei vari luoghi, ma anche sui palchi, portano le loro testimonianze di antifascismo attuale. Quest'anno gli interventi principali, quelli che ricordo, vado a memoria perché ce ne sono veramente tanti. Alcuni sono l'antifascismo di chi lo esprime magari sulla propria pelle, combattendolo anche con le armi convenzionali, come quello di chi subisce gli attacchi dei golpisti nazisti di Kiev. Stiamo parlando della popolazione del Donbass, ci saranno interventi di testimonianza, così come ci saranno interventi della rete palestina che riporteranno le testimonianze appunto dei territori di Gaza, così come ci saranno degli interventi sulla questione dell'attacco statunitense al paese sovrano della Siria, ma ci saranno anche interventi ad esempio dei lavoratori della Castelfrigo di Modena che hanno subito una serie di vessazioni, un'avvertenza ancora in corso, dove il fascismo si esercita tuttora tramite l'azione disinvolta di false cooperative che riescono a toglier loro salari, diritti e quant'altro. Dovrebbero esserci anche interventi ad esempio di chi ha subito il fascismo bullesco, dico io, di Renzi in diretta televisiva, come quella compagna che è stata beccata mentre proferiva parole ingiuriose contro la polizia in manifestazione, in diretta televisiva è stata licenziata ed è tuttora soggetta a procedimento disciplinare, quindi con notevoli ripercussioni. Ci saranno anche interventi più sul filone, consentimi la parola, classico, come ad esempio l'intervento di ECN Antifa che riporta quella mappa delle aggressioni fasciste in Italia negli ultimi tempi, di Casa Pound, di Forza Nuova principalmente. Insomma, negli ultimi mesi sembra che anche, come dire, molti del mainstream si siano accorti del problema dell'avanzata neofascista in Italia. È una riflessione che avete svolto anche al Pratello? Sì, ed era anche come dire nell'incipit della festa di quest'anno, un incipit che tra l'altro ha trovato larghissimo, anzi unanime consenso tra tutte le associazioni e le realtà che hanno partecipato anche all'assemblea di Lancio, all'assemblea cittadina. Però non è solo quello che intendiamo rappresentare, perché quello è, come dire, sicuramente l'aspetto più evidente, più odioso, quello più immediatamente visibile. Credo che tutto sommato vada posto anche l'accento, o meglio puntare qualche riflettore, perché rimane sempre un po' in ombra il fenomeno del fascismo, quello istituzionale, quello più pericoloso, che si avvale appunto di questi sgherri magari in camicia nera, quelli truci, orrorifici, ma che è molto più pericoloso quando magari quello che ti si ammanta di valori di antifascismo e di democrazia, poi magari la democrazia la esporta a suon di bombe in altri paesi. Diamo qualche riferimento organizzativo, ci sono disposizioni particolari? Partiamo dalle cose gioiose. Anche quest'anno ci sarà il corteo antifascista, quello formato da tutte le realtà antifasciste, quindi centri sociali, associazioni, organizzazioni che costruiscono questo momento. A differenza degli anni precedenti, non partirà più da Piazza dell'Unità, ma partirà dalla rotonda Do di Maracino, dalla barca, perché si intendeva dare omaggio a questo compagno scomparso e che è stato ricordato con l'intitolazione della rotonda. Attraverserà vari punti della città, ci sarà saranno dei momenti di fermo presso alcune lapidi che sono state attaccate dai fascisti e incendiate, distrutte, per poi giungere in via del Pratello, dove naturalmente ci saranno anche degli interventi da parte degli organizzatori del corteo. La festa poi prosegue, naturalmente vede la partecipazione dei bambini del coro resistente, che oltre che al Pratello poi andranno in un piccolo corteo a Porta Saragozza a omaggiare le vittime omosessuali del nazismo e del fascismo a Porta Saragozza, e poi ci saranno i vari momenti musicali, i vari interventi di tante associazioni. La novità di quest'anno è stata l'introduzione del piano di sicurezza. Le norme antiterrorismo? Esatto, queste norme hanno un forte impatto che, a quanto so, hanno già determinato la messa in crisi o la chiusura di altre feste che erano oramai piuttosto tradizionali, radicate sul territorio. Noi siamo riusciti a fare fronte, ovviamente l'impatto economico c'è stato, però devo dire che c'è stato anche un buon clima collaborativo con il comune, ci ha saputo supportare, insomma, seppure ci sono state delle difficoltà, siamo riusciti a superarle, pensiamo che si possa anche migliorare anche in futuro.